Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Volano anche loro in qualche misura, ma senza il rischio di cadere. Sono i droni marini che hanno conquistato le prime glorie già molti anni fa. A loro dobbiamo le immagini del Titanic e alcune spettacolari imprese di recupero sottomarino. Più silenziosamente e assai meno clamorosamente, i droni marini stanno ora vivendo una specie di seconda giovinezza, trainati a loro volta dal successo dei droni aerei. È un mondo di applicazioni che sta esplodendo in questi anni, di cui vogliamo fare questa sera una carrellata, ma in futuro insomma ci torneremo con qualche puntata ad hoc. Ma dicevo, una carrellata con l'aiuto di Luca Masali, direttore responsabile di Dronesin, rivista italiana sui droni. Buonasera Luca, benvenuto. Buonasera a voi. I droni marini molto divertenti, molto interessanti, come dici tu, volano come i pinguini, volano sott'acqua. Esatto, sì. Esatto, proprio come i pinguini. Ecco, però, ecco, non tutti in realtà volano sott'acqua. Intanto ci sono due grosse categorie. Esatto, ci sono i droni di superficie e i droni sottomarini. Subacquei, diciamo così. Subacquei, sì, la differenza tra i due chiaramente è che i primi galleggiano e i secondi si possono immergere e quindi fare il loro lavoro sott'acqua. Con un vincolo, che le onde radio, sappiamo, non arrivano sott'acqua, per cui tutti quanti devono essere, i droni che vanno sott'acqua devono essere collegati a qualcosa, che può essere alla stazione a terra attraverso un cavo, oppure a una boa che galleggia e sotto c'è il cavo che arriva fino al drone e gli porta il segnale. Un problema che hanno anche i sottomarini veri, che infatti comunicare con i sottomarini in immersione è impossibile. È praticamente impossibile, quindi c'è questa boa che eventualmente poi può avere un collegamento radio e a quel punto alla distanza che si vuole. Ecco, ci sono, diciamo, stanno invadendo un po' tutti gli ambiti. Intanto c'è quello tradizionale, che è quello dell'esplorazione, del monitoraggio ambientale. Qui ci sono tantissime iniziative. Sì, tantissime davvero. In Italia, tra l'altro, siamo messi molto bene su quello. Per esempio, c'è sul lago Trasimeno, da diversi anni, cioè dal 2014, che è pattugliato da dei droni che hanno le dimensioni di una barca remi, per capirci, e che hanno sia delle camere che stanno sotto, quindi guardano sott'acqua, altre che guardano fuori. Hanno dei sensori per misurare l'inquinamento e le caratteristiche chimiche dell'acqua del lago. E se ho capito bene, sono come delle piccole portaerei. Esatto, cioè, perché hanno anche un drone, diciamo, volante, un classico drone multicottero che all'occorrenza può decollare, per esempio, per andare a vedere l'ambiente, per esempio un canneto, perché nel canneto chiaramente il drone marino non si può avventurare, perché altrimenti resta lì incastrato. Ecco, ma insomma, studio quindi intanto della qualità, del livello di inquinamento delle acque. Ci sono droni che si stanno pensando di utilizzare per inseguire le navi, cercare di annusare se le loro emissioni di inquinanti superano, esatto, no? Questo viene fatto nel Mare del Nord, soprattutto dalle agenzie europee, perché anche le navi, come le automobili, hanno dei livelli di inquinamento e non si può, e se non hanno l'euro giusto, insomma, non è che li puoi fermare con la pattuglia tanto facilmente, quelle lì. Esatto, hanno dei droni, però in questo caso volanti, questi volano che si avvicinano ai fumaioli, annusano che cosa viene ruttato dal fumaiolo della nave, e mandano i dati e quindi poi dopo, se del caso, insomma, li fermano o fanno dei controlli più approfonditi. Quelli sono droni che volano, in effetti. Poi ci sono droni che pattugliano, per esempio, sempre marini, che pattugliano le coste in Inghilterra, per esempio, sia per salvare le persone che possono essere in difficoltà, sia anche, soprattutto, è una cosa che tocca molto da vicino noi, anche per monitorare gli sbarchi e gli arrivi, certo, clandestini. Allora, ci sono anche tantissimi altri esempi, droni che esplorano le fogne, droni utilizzati per esempio le ricerche archeologiche marine, per tenere sotto controllo i sedimenti che si depositano alla base delle dighe. Ecco, insomma, tantissime applicazioni ambientali. Vediamone un'altra però di filone che si sta molto sviluppando, che è quello relativo all'intrattenimento e allo sport, quindi anche oggetti che sono vicini al consumatore. Sì, ecco, perché fino adesso i droni che abbiamo visto finora sono molto grandi, molto costosi e molto impegnativi. Invece adesso stanno arrivando alle portate delle tasche dei consumatori, per esempio. Qualche esempio? In Italia, per esempio, adesso arriverà a giugno, quindi in tempo per le vacanze, diciamo, un drone cinese che si chiama Power Ray come la razza, non come il raggio. è che è un drone che viene pensato più che altro per i pescatori, addirittura c'ha delle manine per mettere le esche, però naturalmente può essere usato poi da chiunque faccia immersioni sportive o anche gente che vuole semplicemente farsi il giretto in barca e andare a vedere il fondale. Cioè sostanzialmente uno sta sulla barca, però ha il drone che gli pattuglia gli intorno, per esempio alla ricerca di banchi di pesce o di cose da andare a vedere sostanzialmente, sì, così, anche no? In avanscoperta. Anche perché scende a 30 metri, che se uno non è capace può andare giù con il drone e fare anche delle riprese del fondale. Va bene, per intanto ci dobbiamo fermare qui, ma senz'altro Masali ci risentiamo per raccontare un po' meglio alcune di queste esperienze. Benissimo, buon divertimento con i droni marini allora. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento domani per l'ultima puntata dello speciale dedicato ai droni. Parleremo di autovolanti con Carlo Ratti. Buona serata.